E che può essere, non lo so io, buonasera. Buonasera anche a lui. Betto, illuminami, cosa stai combinando? Da cosa vedi di combinando? Cazzo, sto sempre che cazzo sta lui sto? C'è ancora, me ce n'ha... quattro d'ora fa ero in giro, quindi... Allora qualche cosa già l'hai fatta, dai. E per cui va bene così allora. Già va bene, 3-10, 3-10. Se no, pazienza. Pascescia, Bighere. Bighere, pascescia. Ecco su fermo. Andiamo, andiamo, bobo. Ehi, cazzo. Cazzo, vai male, andiamo. Io andassi a più bene. Ci devo fare la questione seria, Cazzo, si che non bisogna pensare a chi. Così, Cazzo, bene si abbassi. Direi fino a poco fa c'era caldo, però adesso c'è la riecca, ho aperto tutto io, qua è tutto aperto, E per cui sta passando la riecca, prima ci avevo anche la ventola accesa. Però c'era caldo ugualmente, capito? Non lo sai, ma un po' c'era caldo. E io non ci vuoi fare. E domani, dopodomani peggio ancora. L'ha messo. Perché l'ha messo, c'è la metà della prossima settimana. Andiamo bene, andiamo ancora. Davvero, andiamo bene. Bisogna bere molta acqua. Stiamo sempre biscendi. Cazzo, non c'è un po' più. Il gatto dice come vendi. Fa bene. E non tanto si fa svuotare subito. Ma manco lo tempo di villa. Io sono entrato in bagno. Va bene. Almeno si purifica tutto la questione. Chissà, c'è vero. E quando così va tutto bene, la gonfia bene, cazzo. Dice che l'acqua fa sempre bene. Più ne bevi e più ne buci fuori. Tu sei così, così apri il bagno, andai nel torrente. Cazzo. È bello così, to. È bello così. Caso non li fa la questione mi fa sei seria, Se non li fa la questione mi sei sì. Ah, vero, ya. Io ho ragione. E oggi mi ha mandato 4 rapporto Graziano, che è andato a Bari, ed è posato in la spiaggia, Baglia Asciuga, una Cadrea, o Saranchi, come se due invece di roccio. Cazzo, vabbè. Facciamo lavorato. Andiamo. Chissà. Sai cosa? A voi ieri andava già ora, mi ha detto che l'ha negato un bel, l'ha negato. Già appena c'è te, appena uniera vicino con la Cadrea e Baglia Asciuga. E l'ha indicato bene, ha dimagrito parecchio. Atta, non c'ha le gambe fine fine, cazzo. È una persona anche in dosso, è abbastanza magro, ma così quanti cucchini pesa? Certo, andiamo bene. Da chissà, se riesce a tirarsi. Dice che ne ha rotto le pastiglie, non se ne sta durando la bella, e lo sta facendo dimagrire. Certo, e lo sta facendo dimagrire, si sente anche più bene. Ma così è troppo 45 kg, aiuto. No, 55 adesso sto. Anche 55 è la matessa cosa. Certo, non si può così. È come era prima, era troppo, cazzo. Cazzo era una botte prima, cazzo. Cazzo era imbuffato, cazzo. Io l'ho visto 2 mesi fa, che era di più. Era molto grosso, Poi quando è giunto in che era giusto, che era un bel grosso. E per cui adesso invece ho visto che è magro. Cazzo. Dunque, la sta bene, tranquillo, gli acciacchi ci sono, però sta rattoppando e andando. Meglio così. Se sta bene, meglio così. E allora, cazzo. Stai bocciando a mare, cazzo. Questo gaggio, cazzo. Mamma mia. Perché cioè, è a pensare che c'è l'ossigeno lui, però non ne aveva ossigeno in mare, era asciutto in bagnasciuga, però l'ossigeno non ne aveva, evidentemente si era tolto per entrare in acqua. Sì, infatti. Se ne spiace l'ossigeno non se ne può portare, ecco cosa è. Perché la scopa? Se mi serve, cioè, non è che per un bito attorno. Magari no, se entrati in acqua chiaro, può avere la bomba in mezzo ai piedi, no? Ah, no, no, non lo so come... No, lo so, non l'ho visto e non so neanche come... E ho visto questi giorni, non ne aveva, non l'ho chiesto nemmeno. Evidentemente quel momento se l'ha tolto e l'ho lasciato fuori. Perché fuori in questo caldo, per lui che soffre, cazzo, lo penso senza ossigeno possa resistere a questo caldo. Infatti, non lo so come abbia fatto a rimanere in bagnasciuga senza ossigeno. Ma, per dare lui cosa fare, vuol dire che ha rischiato e si sentiva di andare, di andato. Cazzo. Meglio così, è così, ora meglio che si svaghi uno quando può, quando non si può partire. Infatti, quando non si può, non si può. Più di così non si può fare. E allora, siamo israeli, e su una lira, per carità. E galei il saluto. E siamo tutti quanti peggiorendo, insomma. Non c'è più uno che non ha pagina di diabete. In Sardegna dice me, che c'è un gruppo, a Cantagnettino. La Sardegna è piena di diabeti. Certo, però non ho regalato ancora il metodo a poter stare tranquillo. Invece con questa sempre... Qui c'è Giulio, un gatto per carità, gatto. Oh, ce ne sono giovani che qua piccoli i miei, gli amici, e fanno 4-5 volte l'iniezione. Qua piccolini, no? Sardegna è diventata a peggio, è diventata. Anche qui c'è la massoria, mi sa, da giovanissimi a avere quella funzione, per carità. Vabbè, però ci stanno le regole, uno campa 100 anni, così hanno detto. Non lo so, e la diabete già lo sai che porta tante cose, se non curata. Infatti è così, purtroppo. Giulia, perché non si può più, non si può più. Ah, me ne pare. Cavi raccusa a to. E noi il baiso te la guzzeremmo, se l'avremmo passato. Si aveva ammazzato, ma un po' difficile, però piano piano si va avanti. E dove va? Non è poi va niente, si andrà avanti, meno giusto però, è uscire. Ce la teniamo e ce la beviamo. E così è. E così è. Per carità. E con questo caldo è peggio ancora. Infatti, anche sul caldo non si può stare. Come le opposizioni votano acqua? Infatti, va via. Sto mangiando all'ora di pranzo, va via condizionatore acceso. No, io non l'ho acceso con quello, l'ha detto acceso, stasera. anzi prima quando non c'ho quel cazzo c'era l'arietta, c'era, si stava bene, poi più in là verso il 3 mezzo cazzo ha calmato, tutto stava entrando caldo, allora c'era la ventola e fino verso il 4 a cosa del genere. Dopo aspetta, adesso c'è l'arietta, per cui si sta bene adesso, dai, ha perso tutto e sta circolando l'aria fresca, dai. Sì, un po' di aria fresca sta circolando, però va sempre il gatto, ecco, se possibile, ma che caso deve fare, siamo in estate, per cui luglio, agosto e anche in settembre fa caldo, per cui bisogna andare avanti, a sopportare e tirare avanti. Guarda, non buco caldo, si freschetto, però non è che puoi accendere molto, perché ti becca subito ai polmoni, il condizionatore che è tutto troppo fredda. Sì, infatti. Miraggio, io vi raggio a 24, vi raggio. Non c'è calendario, però non c'è calendario. Io già ne manda. No! Non la faccio uscire. Anch'io l'ho messa a 24. C'è fresco, cazzo, non riesce a sopportarlo, perché e poi con la parte del corico io mi tocca proprio a me, non sale più in alto, capito? E poi con la parte del corico io e non riesce a sopportare, prima mi mettevo un cuscino sui reni, perché io soffro molto ai reni e alle gambe, no? Ma adesso, guarda, anche a 24 c'è freddo, ecco. Un bel freddo, No, non sto mettendo il vento la notte quando mi sto coricando. Non si sta bene così, si sta bene. A una certa ora sento il freschetto, sento. Ehi, non sempre, eppure se c'è caldo, se c'è fresco non accendo la ventola. Noi siamo dovendo la finestra aperta, non la chiudiamo la finestra, cazzo, sennò si muore il lungaggio. E per cui quando c'è l'arietta, cazzo, sta bene, però se c'è caldo, almeno 2-3 ore la ventola la accendo, capito? No, anche io sto dormendo con la finestra aperta, oppure dalla mattina a una certa ora, verso le 2:30, 3, sento il fresco, sento. Ma tu sei magari sotto piano, per cui caldo ne ha di meno. Ma io sono molto caldo, sono l'ultimo piano, sto cadicati che si lascia di cemento a cassone che ha travaggio, che ha travaggio, da risare, bollisce, gatta. Per cui a te tu c'è più fresco perché rimani sotto, ma io sotto il tetto c'è caldo, è molto caldo, sto. Qui c'è sempre più fresco perché si è protetto dai due piani. Ebbetto, gonfato ci si. Ciao Mari! Ebbetto! Ci hanno allontanato perché hanno suonato. E quindi c'era gente. No, ho capito, sto. No, se c'è niente, guardo così, molla giù, cioè io faccio lo stesso. Quando suona devo scappare, sto. Io sto chiamato e insomma, ma me l'ho immaginata che hanno suonato e c'era gente, per cui non è successo niente, va bene così sto. E così è sto, devo fare, certo. Ho visto la temperatura che c'è ancora anche a sabato fa molto caldo. Poi domani ha messo, dalla parte di Cagliari ha messo 37 gradi. 37? Sì, dalla parte di Cagliari però. Cagliari è più caldo. Cagliari è più caldo sempre di qua di Sassari. Sassara c'è più freddo, mentre Cagliari c'era più caldo, perché è più vicino all'Africa, capito? Invece qua ha messo 31-33. Non è assai, dai, certo. Non è assai, certo. Ma è caldo, va per tutto, certo, certo. E per cui lasciamolo fare per tanti chili. E se poi ci vuoi, caldo lo deve fare. Però quando è troppo, magari se eravamo più giovani non avevamo sentito questo caldo così tanto, capito? Mentre a una certa età che te lo senti, lo senti è molto pure. Infatti così, quando eravamo giovani il caldo non se ne poteva nulla. Andiamo in diretta. Esistevamo, però va, come se ne avanzare dai, se prende pesante va a noi. Vai, infatti, allora. Quando facevo il carpentiere, gatta, o c'ha tutte le o c'ha solo, così loro accanto, rigatta. E beh, ormai l'abituato non mi faceva dire niente, capito? Mentre adesso, se sei 10 minuti al sole, gatta, ti viene la malinconia e cadi in terra. Adesso bisogna stare attenti. Non stare attenti agli sì. Ecco, si sa, bisogna stare attenti, infatti. Non bisogna uscire al molto caldo. Quando c'è molto caldo bisogna stare al fresco, tranquillo e pacifico. Che c'è? La campagna, è troppo di campagna. Penso alla salute lì, la campagna mai di vecchia. Infatti, infatti così è. Prima pensiamo alla salute, dopo di fare un resto, c'è bene il tempo. E allora, chiamami, non so così c'è ancora la campagna di Roberto, boh, faccio così come farò. Che andrei così caldo, no? Certo. Mentre che mi risolvo di farà. Cazzo, qui su casa, come ci fa? Come ci fa? Non saranno. Sai, meglio in casa, hai un fresco. Se infatti è così. Infatti è così. È vero, guarda, ma bisogna ripararsi da voi. Ci avanza a tempo. Allo fresco si farà. E poi mi faccio la campagna e un fosso, so. E io un fosso. Dai tutto in piano, dai tutto in piano. Però il calore, il tuo posto si batte, anche se ci sono gli alberi, cazzo, un guaggio, non ti dico niente. E come fai? Sarando. Vai. Ma si vede che la campagna. Pensavo alla salute che meglio. Adesso può andare lo stesso, no? Un altro momento, quando rinfresca. L'anno scorso, sai, e prima scendevo presto la mattina, no? Anche alle 4, mi alzavo, scendevo in campagna, e alle 8, mezzo ero a casa, innaffiavo e me ne salivo, capito? Però adesso non sto innaffiando, è nulla. Oh, non ci scendo più, vivo. Non saranno. Se dovessi magari essere nuvoloso, c'è fresco, io ci scendo, ma se no non ci scendo. Qua ci esco io la mattina verso le 6:30. C'è freschetto, mio. Si sta bene, si sta. Quando? Adesso? Stamattina, anche stamattina c'era freschetto. Si stava bene. Ma non ho fuori la tua camminare presto, capito? Ricordo un'altra volta, se caldo allora la mattina a quel fresco riesci a riposare bene, tranquillo. Cazzo, non è meglio che ci accompagni a fare la campagna. Vabbè, così va benissimo. Caldo va di fresco a chi sera la rifato. A vedere ci fai la campagna lì, non faccio, non ce l'ha fuggita. Oh, già rimani qui. Vai pure che soffre un po' gareddo se non veva. Magari gli agrumi soffrono, gli altri frutti no. Gli agrumi magari soffriranno, perché gli agrumi sono abituati a avere necessità di un po' d'acqua, almeno uno o due volte alla settimana. Però adesso l'anno scorso non ha fiato nulla, ecco perché è rimasto non ha maturato assai la Lazio, capito? E io quando vai a fare il salvino, ma che la cazzo la tutti. Dai, buono, ma che c'è che si è minuto, so. Allora, infatti. C'è un minuto, qua si mangiano matessi. E allora, certo. C'è un albero che è buono adesso, un miraggio. Ah, c'è cazzo di me, un be. Cazzo. E devo passare, ma non mi interessa, no, non ci piace più quello lì, perché è troppo dolce, capito? E non ha giù fatto, qualcuno l'ha giù fatto. Allora si torna a fare il povero posto, ma qualcuno mai ne no. Fai bene. Fai bene, karma conoscito, lo poni a mangiare. E uva c'è molto. C'è uva se non si ammuffisce, cazzo, c'è un bel di uva quest'anno. Un bel culo è, per cui speriamo che si aggrava, che tutti gli anni si prendeva la buffa, cazzo, e non si mangiava, si guastava, ma quindi un po' un anno, cazzo, ma comincia a colorare piano piano, e speriamo che si guasti, ma come mangiamo l'uva. Eh sì, infatti è così, tocca fare l'uscita, tocca fare. E ho forzato tutto a poco e niente, cazzo un danno a cascette la brulare mulica, a cado nulla, cazzo, ma una mucatura da regalo, una piena burro, non finirà una che fanno, coccia loro io finirà, un bel puro, ma pure la mulica e sanno un po' che niente, e mi non la burro era. No, non ha giovito, in nessun luogo non ha giovito, questo per passaggio a livello non aveva un po' carito una via, quindi non ha fatto manco una ruzza. Poco ce n'era, poco, perché mette un anno morto, un anno poco, capito ancora? Come gli aranci, tanto già finiranno passato a casa, mi devo cacciare un bel puro, che chissà che è maduria, trovo che su fila poco e niente, tanto a cascette li va via, la va via la brura, a casa invece, ma quando ho abbassato, prima erano già tutti i gatti le figure, a nessuno, a chi lo veniva. Infatti, un appoggio poco, un appoggio di fanno. A maggio, la 42, era vabbè, purtroppo, così, e così ti rabbiamo. E allora, una figa, cazzo, prima è facciato una figa, cazzo, quanta figa va via. E già due o tre anni non è preso poco e niente. Ah, la gente che serve i nodi, che cura per forza in alto, in punta. Ma, sì, chi sa prima che fai, chi sa figa di lì, ma non ci mangiato uno o due, cazzo, figa bianca. Non l'ha posto. C'è quello invece che di Forza Carlo, cazzo, quello andate a mezza, cazzo, prima. Ah, ma fatti, così vede e guascende, soppure ce la mangiano i curracci, capito? E non ce ne fate di mangiare. Se la mangiano i curracci ce la mangiano. Tanto sono Mario. Non ce ne fatta la cariaccia, cazzo. Certo. Quindi era un bel, cazzo, stavo parlando di fa mira e non si era bacuna. Tre o quattro balerà già uno. Cazzo, se ne ha mandato le corrette, se ne ha rimandato. Alla faccia mia, ti immagini? Era il travaglio e l'altro si rimagna. Non lo so. È così. Come se cazzo muria, cazzo di altra parafà, ma no, cazzo. Cazzo prima, cazzo, un bel famo va a dire, E invece la buona cominciato che ci curracci un bello, ma non c'è cazzo finita lì, cazzo, e ho ghiacciato la fava, cazzo, e tassato la buccia attaccata, cazzo, di bucciava, ci mangiava un vento, che ci vedrete, la buccia attaccata, e allora non la si è piantato più. Hai fatto questo, a mangiarci le edi, non ne vuole più. Anche ci sono un bel alberi, ragazzi, capito? Tiri, mi sono cipressi, gatta, insomma, allora i corracci si fanno un lido, e sono tutto l'anno così, strutturato i giochi sicura, ma un bel però mi so. Certo, immagina la frutta, vedi se la magna. Che sono furbi, so, ecco cosa so. Sono furbi. Beh, ho che vicino. Questo è una famiglia che le rampa, rubane le rampa. Adesso accudendo i buoni gabbiani a fa. Ecco, è da arrivi, è da poi arrivi, da una da arrivi di dentro. Ed è peggio. Oggi te manco mari che vigile, ha giunto. E la parubani, io mi gioco dentro, con fetta di gabbiani a fanno, mi gioco dentro. Allora, se abbiamo avuto il telefono, abbiamo fatto la fotografia. Abbiamo fatto. Ehi, vabbè, sai cosa deve fare. Certo, come regola non bisogna la ballina. Perché lui ha smuccia. Allora, c'è anche panino, il mio che bisogna sempre il balcone, i civili ferri, sempre è diviso, e c'è gente che ha del buono a mangiare, anche per la signora che il buono, un pane, grassigeggia, un pane tutto, grassigeggia, e per il buono, tu mangiate, tu vedi la facciata, c'è 30-40 biccioli, e c'è gente che ha fin nato per mangiare. Sì, vabbè. Aspetta, ma ne so cosa ne... Prima erano due gabbiani. Ah, ve ne so sei. Quando è più ne so arrivendi? Ha detto, più ne butta e più ne vengono. Questo qua ne gira, ne colito. Guarda che si piega tutto, la gente gli farà qualche esposto, gli farà. A chi tutti va di uscire, ma noi riusciamo a te finire. Tutti, se che voce la palla per i bici in mano, eccetera, cazzo, è chiaro che sani che no, che acciappa di sempre, che mangiare è bene, invece se non la via tampato di ciuolo, non per aneutti, capito? Noi quando sarà qualche cosa, per esempio bacia asciutta, oppure un coso di rubescio, si rifarebbe a maggioccio, si rifarebbe con un bianco, viso riaccia, che viso ad alcuna di questi riacci, per cui si rimorivo, però quando viso il biccione, andare il biccione pure a mangiare. Adesso sì, ma... Molte di noi che mi sono accudendo nei gabbiani, mi sono accudendo. Anche no, pure no che sono viso i gabbiani. Se tu hai un pezzo di mollica del mare, no? Giusto. E che non fai manco biccioli, nulla. Come se ti rapirai un biglietto, un viaggio, un biglietto. E lei subito rivede, lì che sei, e sta a farla lì, fa pigliare un male. Certo. Non dovete andare a farle nulla, invece di... Sabato i lampani, non vedi cosa i lampani, no? Lei che sono del primo piano si è lamentata, ha detto che la faccia è già male vigile, ha detto. Dalla parte da fare che dovrebbe uscire, cosa fa? Che erano di mare, i buoni mangiati a casa. Certo. Arrivai su punto, no, cazzo, non stai io. Anche certe volte noi prendiamo la roba, magari acciappiamo qualche capo steso, tutto cagato, cazzo. E beh, cosa mi hai fatto? Cosa ci vuoi fare? Per arrivare a chiamare i figli, sì, non sarei capace io per dire. Perché molte volte butta pure l'acqua, questi qua buttano. Sarebbe giammai che faccio la doccia che c'è del primo abbiano. Se certo, ma giammai che pure in terra nel rifugio. La cosa vai e magari ce le metti un po' cazzo, a lontano magari da casa, cazzo, dal vicino non da bene, non va bene, però se tutti sanno le regole sarebbe stato l'unica soluzione, però cosa fai? So che sabrieni, no, ma poi si vede che sempre fare studiato di forza. Fate Giovanni che butti l'acqua, buttala lontano, ma non mi ne rampi quasi in lampo, mi ne rampi. Cioè, ha detto cosa la signora? Ha detto signora, caspita, non si può buttare l'acqua, per il momento gli fa anche la doccia. Aspetta, non lo so, poco a poco sta buttando montezza e tutto quanto sta buttando. Per appena le cose, appena appena. Se salgo su ne la butto giù, nella finestra ne la butto. Ah, si è già arrabbiata, Poi a fare uscito, va bene, insomma. Scendi, cacca, e mettere a lontano, ma buttare dalla finestra, no. Non è giusto, dai. Perché passo la persona, ragazzi, e buttare roba sopra non va bene. È come qua, cazzo, noi qua il passaggio sotto dove sono io è passaggente, no? Se va a buttare cose alla finestra qualcuno va a stendi, cazzo, va a buttare di sì. Ah, così non va bene, no? Già, il marito è vigile, oggi era acciarato in mutande, in maglietta, la prendeva cosa da rubacconi. Non contenga, c'è un vigile esempio, deve creare esempio, invece no, peggio era. Lì c'è gente molto severa, molto severa, no, ma se sei vicino, ma che quasi lo vado di tutti, però molto bene, c'è una signora che le ripeto, mette il pane grattugiato ai piccioni, ma lo mette dietro lì, no? E non disturba nessuno. Cazzo, per cui dalla finestra viene. Non va bene, ecco, non va bene perché può passare gente e la questione non va bene, ecco, tutto lì. Ok, va bene, cosa io chiudo, devo fare cosa, ci sentiamo, grazie a chiacchierata, ci sentiamo domani se tutto va brodo, ok? Ok Giovanni, ci risentiamo alle prossime, ok, ciao Giovanni, fammi bene. Ok, ciao, sto chiudo. Ora ci chiudo per la ricorrenza.